Il terzo capitolo della Mishnah, del trattato di Sukkah, al Mishnah Dalet, Rabbi Ishmael Omer, vediamo il numero di ognuna delle quattro specie, quanti rami, quanti pezzi servono per fare la mitzvah. Vediamo cosa dice la Mishnah. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael dice, bisognerebbe prendere Shelosha Hadassim, tre rami di mirto, Ushtei Aravot, due rami del salice, entrambi che abbiamo descritto la scorsa volta, mentre invece per ciò che riguarda il Lulav e l'Etrog, solamente uno, Lulav Echad ve Etrog Echad, un Lulav e un Etrog. La Gemara spiega che questo si basa su delle allusioni, quanto dice Rabbi Ishmael, che troviamo nei versetti della Torah che parlano delle quattro specie, in quanto per descrivere il mirto la Torah usa tre parole, Anaf etz Avot, il ramo dell'albero che è simile alla catena, come dicevamo l'altra volta, no? Quindi sono tre parole e alludono in una derashah a tre rami. Riguardo la descrizione del salice, la Torah usa due parole, Arvei Nahal, i salici che crescono vicino al fiume, Arvei Nahal, e due parole alludono ai due rami, sempre secondo Rabbi Ishmael. Nell'Ulav ci sono due parole, ma c'è un'indicazione che si parla di una cosa singola, perché c'è scritto Kapot Temarim, e cioè viene tradotto con delle foglie, dei rami di tamar, e cioè di palma, però, palma da dattero, però la parola kapot è scritta nella Torah senza una vav, si potrebbe leggere kapat, che è singolare, invece di kapot plurale, quindi va ad alludere al singolo lulav. Ugualmente simile per l'etrog, dove si usa proprio nella Torah una parola singolare, che usa il singolare, come detto, peri etz adar, il frutto, un frutto dell'albero hadar, dell'albero dell'etrog. Quindi questo, secondo Rabbi Ishmael, è alluso nei versetti. E riguardo quanto abbiamo detto degli hadassim, che servono tre, Rabbi Ishmael dice, queste tre hadassim, questi tre rami di mirto, Afilu shnaim ktumim ve echad eino katum. Anche se due di questi rami di mirto non sono completi, nel senso che la parte superiore è stata staccata, come abbiamo detto che quando la parte superiore si stacca non è kasher, lui dice una deve essere kasher al 100%, uno dei rami di mirto. Gli altri due possono essere, anche se fossero ktumim, anche se fossero staccati, spuntati sopra, vanno bene. Rabbi Tarfon Omer, mentre invece Rabbi Tarfon dice Afilo Sheloshtan Ketumim. Rabbi Tarfon dice, anche se fossero tutte e tre le Hadassim, i rami di mirto spuntati, andrebbero comunque bene. Perché, secondo Rabbi Tarfon, la designazione di Hadar, della bellezza che ci deve essere nelle quattro specie, secondo lui è legata solamente al laddove è scritto nella Torah Hadar, e cioè riguardo l'etrog. Ma visto che nel Hadas non è scritto Hadar, non è scritta la designazione di bellezza, di conseguenza per lui non è necessario, anzi, non che non è necessario, ma se fossero tutti spuntati andrebbe comunque bene, tutti i rami di mirto. Rabbi Akiva Omer, mentre invece per ciò che riguarda in generale quanto detto da Rabbi Ishmael sul numero di ognuna delle quattro specie, Rabbi Akiva è contrario. Rabbi Akiva dice che Shem Shelulav Echad Vetrog Echad, così come c'è solamente un Lulav e un Etrog, Kach Hadas Echad va Arava Achat. Anche per ciò che riguarda il mirto deve essere uno, e per ciò che riguarda il salice ugualmente deve essere uno. Ora, com'è l'alaha? Per ciò che riguarda il fatto del Hadas spuntato, ci sono due discussioni in questa Mishnah. Uno è sul numero delle quattro specie, che è la discussione tra Rabbi Ishmael e Rabbi Akiva. Un'altra discussione è, era una discussione tra parentesi, sul Hadas, sul Mirto, se è possibile che tutti e tre siano spuntati e sia comunque kasher, oppure serve almeno uno che non è spuntato, secondo Rabbi Ishmael è così. Mentre secondo Rabbi Tarfon va bene anche se, non è, se sono tutti e tre spuntati. La halakha in questa mini discussione segue Rabbi Tarfon. Mentre, cioè, anche se fossero tutti e tre spuntati, sarebbe, rimarrebbe comunque kasher. Mentre invece, secondo Rabbi, mentre invece per ciò che riguarda l'altra discussione, e cioè il numero di ognuna delle cose, qual è la halakha? Quella di Rabbi Ishmael. La halakha è stata decisa dai poskim come Rabbi Ishmael, e infatti così si usa anche oggi. Sul fatto della halakha che segue Rabbi Tarfon non è effettivamente così semplice, nel senso che ci sono poskim che dicono che comunque la das, che la cima spuntata non va bene, e tra l'altro la Mishnah che abbiamo studiato del Hadas l'altra volta dice questo: Hadas niktam rosho, quando è spuntata la testa non è kasher. Ma in questo caso la Gemara dice, grazie, che la halakha segue Rabbi Tarfon, non segue quella Mishnah. Rabbi Tarfon in effetti discute non solamente con Rabbi Ishmael, ma anche con quella Mishnah anonima che avevamo studiato l'altra volta. Ma su questo si discute tra i poskim. Ora non entriamo nei dettagli della discussione, ma in generale si riconosce che la halakha segue il Rabbi Tarfon. Ovviamente quando noi cerchiamo e acquistiamo il Hadas, vogliamo acquistarlo completo. Posso? Prego. Perché li dicono sempre Rabbi? C'è uno dice una cosa, quell'altro le dice l'altra. Perché amano la verità. Vogliono approfondire per però capire il vero senso delle cose. Assolutamente sì, perché nessuno dà una cosa per scontato. Perché discutono? Discutono perché attraverso queste discussioni riescono a chiarire meglio la definizione delle cose. Noi riusciamo a capire meglio, perché quando capiamo perché discutono, quali sono le motivazioni della discussione, possiamo approfondire molto di più il significato della cosa che viene trattata. Potrebbe creare confusione, per questo abbiamo la Gemara, per questo abbiamo i poskim che approfondiscono sempre di più per creare meno confusione possibile e più chiarezza e comprensione della mitzvah che abbiamo davanti a noi, che stiamo studiando. Chiaramente c'era un momento in cui non c'erano discussioni, quando le cose erano più chiare. Quando le cose erano più chiare perché c'era un'unica tradizione. Poi è un discorso per un'altra volta. Con il tempo, a causa di vari fattori, ci sono create varie scuole, varie tradizioni, eccetera. Allora è diventato più difficile arrivare in maniera diretta. Non diventati partiti? No, partiti no. Ora, Mishnah Hei. Ora vediamo la regola del Etrog. Abbiamo concluso quindi le regole che riguardano il Lulav, il Hadas e la Arava, in maniera generale, e abbiamo detto il numero di questi. E adesso veniamo a parlare del Etrog. La Mishnah dice, Mishnah Hei, Mishnah 5. Etrog ha-gazul ve-ha-yavesh, come abbiamo detto riguardo anche le altre specie. Etrog che è gazul, e cioè rubato, non di propria proprietà. E abbiamo detto che la Torah dice ulekachtem lachem, che la mitzvah dell'ulav è qualcosa che voi dovete acquistare, che sia di vostra proprietà. Se non lo è, non si esce l'obbligo della mitzvah. Ve-ha-yavesh, yavesh significa secco. Se l'etrog è secco, non è considerato più hadar, bello, quindi non rientra nella mitzvah, perché qui la Torah dice esplicitamente che l'etrog deve essere, è definito proprio come hadar. Inoltre, shel asherah, se fosse un etrog di un albero che è stato adorato in un culto idolatro, allora non è valido. Oppure shel ir hanidachat, un etrog che giunge da una città dove tutti sono stati spinti verso la avodah zarah, pasul. In questi casi, questi due ultimi casi, il motivo della regola che l'etrog è pasul è perché, se vi ricordate l'abbiamo detto anche riguardo il lulav, perché in questi due casi qual è la regola? La regola è che vanno bruciate queste cose. Le cose della città. Le cose della città o le cose che ha adorato con avodah zarah nell'asherah. Di conseguenza è come se non ci fosse una reale presenza di questo frutto, perché per noi da un momento all'altro bisogna che sia bruciato, quindi non possiamo considerare un'entità valida con cui farci una mitzvah. Ok? Mm-hmm. Bene. Ora abbiamo alcune regole che riguardano le etrog che non abbiamo visto riguardo le altre specie. Per esempio, visto che si tratta di un frutto vero e proprio, ci sono altre regole, vediamo un po'. Se fosse un etrog shel orla, orla significa il frutto di un albero entro i primi 3 anni di vita di dare frutto dell'albero, che questo frutto per noi è vietato usufruirne, non lo possiamo mangiare, né possiamo trarre beneficio da questo frutto, di conseguenza non lo possiamo neanche usare per la mitzvah di etrog. Quindi la mitzvah è considerato un beneficio? Assolutamente sì. Senza quell'etrog non puoi fare la mitzvah, significa che trai un beneficio. No, che trai un beneficio materiale. No, non deve essere solo un beneficio materiale. Tra l'altro deve essere tua proprietà, quindi, per poter fare la mitzvah. Allora, shel orla pasul non è valido, perché deve essere come appunto ulekachtem lachem, di tua proprietà e qualcosa di cui tu puoi usufruire. Nel momento in cui non ne puoi usufruire essendo orla, allora non rientra nel ulekachtem lachem, non è per voi, ed è fuori dalla regola del lulav e l'etrog. Se fosse un etrog, prossima casistica, shel trumat mea, della terumà, della la terumà, il dono dei frutti che noi diamo ai kohanim, che assume la terumà uno stato di kedushah, e è vietato che la terumà diventi impura. Qualora la terumà diventasse impura, va bruciata. Ora la domanda è, un etrog, che è un etrog di terumà, ed è diventato impuro, anche qui è pasul. Perché? Perché il kohen non lo potrebbe mangiare, essendo impuro questo etrog di terumà. Allora, come abbiamo detto nell'orla, se tu non ne potresti usufruire, allora non puoi usufruirne neanche per la mitzvah, e così anche per l'etrog di terumà impura. Se fosse un etrog di terumà non impura, quindi pura, potrebbe essere usata dal kohen, che è quello che ha il permesso di usare la terumà, chiaramente non da un non kohen. Shel terumà tehorà. Ora la Gemara... scusate. Quindi riguarda solo il Kohen. No, no, aspetta, scusate, ho detto troppo veloce. La terumà pura, se un etrog di terumà pura, vediamo il testo. Shel terumà tehorà, un etrog di terumà pura, lo yitol, non lo usi. Significa, come dicevo prima, teoricamente il Kohen potrebbe usare il etrog di terumà pura, perché siccome lui potrebbe mangiarlo, allora potrebbe usarlo per la mitzvah. Però qui la Mishnah dice non usarla, non dice è invalida, come dice nelle altre voci, psula, pasul, etrog e pasul. Non è pasul, è permesso. Però non usarlo, perché no? La Gemara spiega che è stato fatto un allontanamento da una possibile situazione che si vuole evitare. Non che sarebbe vietato, è permesso. Però la Mishnah dice non farlo. Perché? Perché? Tu devi comprare. No, è suo. Se io do la terumà a un Kohen, diventa di sua proprietà. Quindi non c'è nessun problema sulla proprietà. Sul etrog stesso di terumah pura per il Kohen. Potrebbe farci la berachah. La Mishnah tuttavia dice non fare la berachah. Perché? Allora la Gemara spiega che, visto che per tenere fresche le altre delle quattro specie, cosa si fa? Si mette nell'acqua e quando si tira fuori dall'acqua, per fare la berachah, si accosta all'etrog con il lulav e si dice la berachah e poi si accosta. Allora, cosa succede? Un frutto, e questo l'abbiamo studiato in un altro contesto un po' di tempo fa, diventa idoneo a poter diventare impuro solo dopo che ha avuto un contatto con l'acqua, con il liquido. Cosa significa? Spiego. Significa così. Se io porto a casa un cesto di mele, ok? E questo cesto di mele non è mai stato volutamente sottoposto a un lavaggio o in qualche maniera al contatto con liquido. Volutamente deve essere. Quindi che io prendo e mi fa piacere che la pioggia scende sopra queste mele o che li lavo, eccetera. Dopo che, se non è stato mai sottoposto volutamente al contatto con liquido, anche se qualcuno che è impuro dovesse toccare queste mele, le mele non diventano impure. In altre parole, non hanno la possibilità di assorbire impurità, se non che prima siano state in contatto con liquido volutamente. Si chiama Mukhshar lekabel tuma, adatto ad accettare, a ricevere, ad assorbire la tuma, l'impurità. Ci sono cose che non sono adatte a ricevere l'impurità. Facciamo un altro esempio, sempre dal trattato di Sukkah che abbiamo studiato. Oggetti vegetali grezzi, quindi che non rientrano nella categoria di keli, che significa letteralmente strumento, sì, o utensile, ma non deve essere quello che noi pensiamo strumento o utensile, può essere anche una cosa semilavorata, ok? Però non grezza. Allora, se è un vegetale grezzo, non riceve tumà e di conseguenza lo possiamo usare come schach, perché abbiamo detto che qualsiasi cosa che potrebbe ricevere la tumà, anche se non è tamè, anche se non è impuro, questa è la distinzione. Non stiamo parlando di cosa è impuro e cosa non è, stiamo parlando di cosa potrebbe potenzialmente diventare impuro o non potrebbe proprio diventarlo. Allora, il vegetale che noi usiamo per lo schach, per coprire la sukkah, è definito, una delle definizioni che abbiamo studiato, è che non ha la possibilità di ricevere l'impurità, e non mekabel tumah. Allora è valido per usare come sechach. Se è una cosa che potrebbe diventare impuro, anche se in effetti non lo è ancora diventato, è comunque invalido per lo sechach. Torniamo al nostro caso, quello della frutta, quello del cibo. Il cibo che cresce, frutta e verdura, potrebbe diventare impuro, ma qui c'è un altro passaggio che non c'è nelle cose grezze vegetali, e cioè che per poter diventare impuro deve essere prima in contatto volutamente con un liquido. Ok? Allora, cosa c'entra con l'ulav e l'etrog? Se io prendo l'etrog di terumah, e ricordiamoci, per la terumah noi vogliamo evitare che diventi impura, e lo metto in contatto con il lulav bagnato, allora entra in contatto con un liquido volutamente ed è più vicino quindi a poter acquisire la impurità. Siccome vogliamo allontanare la terumah dall'impurità, la Mishnah dice non usare l'etrog di terumah per la mitzvah. Usala per un'altra cosa, ma non per la mitzvah. Non per rispetto, perché è vietato che la terumah diventi tamè. Sì, sì. E vogliamo allontanare questa possibilità. Per evitare che possa diventare impurità. È un presupposto per diventare impuro, quindi non è un presupposto per diventare impuro, esattamente, e vogliamo evitare questo presupposto per evitare ancora di più che diventi impuro, che quello sarebbe proprio una vera vera e propria, la terumah è vietato farla diventare impura. Ok? Allora quindi è un allontanamento. Teoricamente, di nuovo, l'etrog di terumah pura per il Kohen sarebbe assolutamente permesso, non c'è nessun problema, solo che vogliamo allontanare la possibilità di diventare impuro. Sì. Ok? Quindi la Mishnah dice lo yitol, però veim natal, Se però ha effettivamente fatto la mitzvah con la netilah, netilat lulav, ha fatto la mitzvah con l'etrog della terumà pura, kasher. La mitzvah è valida. Non abbiamo nessun motivo per dire non è valida la mitzvah. Anche se è unita? Perché no? Ah, perché è impuro a quel fine. Cioè, con non è impuro. Il contatto con il liquido fa sì che possa diventare impuro se contattasse una cosa impura. Sì, scusa. Ma fare la mitzvah con l'etrog puro per il Kohen è una mitzvah valida. La Mishnah dice non farlo per non entrare in quel presupposto. Certo. Ma se l'hai fatto? Se l'hai fatto la mitzvah. La mitzvah è fatta. Non sei andato contro nessuna mitzvah. Hai fatto la mitzvah? Però senza attenzione, hai qualcosa per le mani che può diventare che può. Oh, bravissimo. Molto bene. Ora, prossimo caso. Shel Demai. Se è un etrog che è stato acquistato da una fonte dove non si sa, si chiama Amaret, cioè letteralmente significa ignorante, ma sono le persone che non sono affidabili se hanno effettivamente prelevato la terumà e il maaser prima di venderti quel frutto, quindi tu non sai, c'è il dubbio se devi prelevare la terumà e le maasrot, le decime eccetera che ci sono da prelevare in Eretz Israel dai frutti, se lo devi ancora fare o se è già stato fatto. Se lo prendi per esempio da un posto che c'è la teuda che dice io ho già fatto terumà e maaser, ok, allora, però se c'è il dubbio, la designazione alachica del frutto che è in dubbio riguardo questa cosa è demai, questa parola qui che abbiamo visto adesso. Quindi di dubbio. Dubbio di maser o non maser. In caso di dubbio, di demai, bisogna prelevare il maser, anche se senza la berachà, perché è un dubbio, ma si preleva il maser per il dubbio. Quindi finché non lo si fa, non si può mangiare. Se le troghe di demai, c'è una discussione. Bet Shammai Poslin. I maestri della casa di Shammai dicono Poslin, rendono Pasul. Non è valido per la mitzvah, visto che non lo puoi mangiare quando è demai. Quando è nello stato di dubbio, non lo puoi mangiare. Di conseguenza, come dicevamo prima, quando non lo puoi, non puoi usufruirne, non puoi neanche usufruirne per la mitzvah. Certo. Mentre invece, Ubeit Hillel Machshirin. Beit Hillel dicono no, per la mitzvah è valida, è valido l'etrog di demai, perché? Perché c'è un caso in cui il demai è permesso. Qual è questo caso? È per i poveri. C'è scritto nella Mishnah, nel trattato di demai, esiste un trattato intero che si chiama demai, la Mishnah dice si dà da mangiare ai poveri anche dal demai, cioè se hanno bisogno di mangiare, non c'è altro, si può dare anche demai. Perché è in dubbio, non è sicuro che, se fosse sicuro, la designazione non sarebbe demai, sarebbe un'altra, si chiama tevel. Tevel è il cibo dal quale siamo sicuri non è ancora stato fatto il prelievo necessario di maaser e terumà. Il demai è dubbio, il demai possiamo darlo ai poveri. Allora Beit Hillel dice, visto che esiste una permissibilità di cibarsi dal demai, di conseguenza è permesso usarlo per l'etrog, non lo devi mangiare l'etrog chiaramente, però il fatto che sia, che esiste il concetto di mangiare il demai, anche se solo in alcuni casi prescritti, o circoscritti, comunque è permesso per la mitzvah. Mentre Beit Shammai è più rigoroso e dice, visto che nel caso normale non si mangia il demai, allora non si può usare neanche per la mitzvah. Altro caso dell'etrog, Shel Maaser Sheni Birushalayim. Maaser Sheni è il secondo Maaser, la seconda decima. Cos'è la seconda decima? Allora abbiamo normalmente la decima normale che va data a chi? Ai Leviim. E poi abbiamo nel corso di ogni ciclo di 7 anni due altri tipi di Maaser. In alcuni anni vige un tipo di maaser e negli altri anni un altro tipo. Uno è maaser ani, quindi oltre al maaser che si dà al Levi, si dà un'altra decima al ani, al povero. E l'altro è negli anni in cui non si dà il maaser ani, si dà il maaser, sono 2 anni se non sbaglio, nel corso dei 7 anni, si dà il maaser sheni, una seconda decima. Come si definisce questa seconda decima? A chi si dà? In realtà non si dà a nessuno. Si deve prelevare questa seconda decima, rimane di propria proprietà, ma bisogna mangiarla solo a Gerusalemme. In altre parole, bisogna andare a Gerusalemme espressamente per lì usufruire del Maaser Sheni. Se ci sono problemi logistici di portare quel Maaser Sheni a Gerusalemme, si può riscattare, cioè trasferire la Kedushah del Maaser Sheni su del denaro di valore di quel cibo, portare il denaro a Gerusalemme. Il denaro è designato denaro di Maaser Sheni, il cibo che acquisti è designato cibo di Maaser Sheni e va mangiato solo a Gerusalemme. Ora, se io ho un etrog di Maaser Sheni a Gerusalemme, posso farci la mitzvah? La Mishnah dice, in teoria la mitzvah sarebbe valida, però lo yitol, non farlo. Lo stesso discorso che abbiamo detto riguardo la terumah, visto che anche il Maaser Sheni è designato come una certa kedushah, e bisogna evitare che diventi impuro, quindi lo stesso motivo che abbiamo detto riguardo l'etrog della terumah si applica anche all'etrog del Maaser Sheni a Gerusalemme, e non bisogna farci la mitzvah. Però se l'avesse fatta, veim natal, se ha fatto la netilat lulav con l'etrog di Maaser Sheni a Gerusalemme, kasher, è uscito l'obbligo. Esattamente come abbiamo detto nel discorso della terumah, dell'etrog di terumah, chiaro? Sì. Ok. Sì, solo un secondo. Mentre invece se questo etrog di Maaser Sheni fosse fuori da Gerusalemme, allora non ci si uscirebbe l'obbligo proprio, perché non si può usufruire per cibarsi o per qualsiasi motivo fuori da Gerusalemme, allora neanche per la mitzvah. Quindi anche a posteriori, se l'avesse fatto, non sarebbe uscito l'obbligo, dovrebbe rifare la mitzvah con un etrog valido. Anche se su questo c'è discussione tra i commentatori della Mishnah. Allora, prego, Leo. Sì, non mi ricordo bene, praticamente sì. I frutti dell'albero nei primi 3 anni, no? Sì, orlà. L'orlà, praticamente, non è che vanno buttati completamente, possono essere raccolti, sono liberi praticamente, se non ricordo male, invece vanno proprio buttati come quando stanno sull'albero. Cioè uno non può trarne beneficio il padrone nella vendita, oppure vanno proprio... No, in teoria non potrebbe trarre beneficio proprio. Chiunque... Assurbe Hana'a. Chiunque praticamente. Sì. Neanche regalarli. Esatto, quello è anche un beneficio. Sì. No, magari passa nel povero... Concludo solamente la registrazione. Allora siamo arrivati alla fine della Mishnah Hei e alla Mishnah Vav la prossima volta... Entreremo nel discorso specifico di difetti eventuali sul frutto dell'etrog, quando è considerato un difetto che lo rende invalido e quando invece rimane valido.